Italia in controluce. Buongiorno ad Alessio Maurizi, l'appuntamento di Radio 24 con le storie della cronaca, grandi e piccole, che raccontano la nostra Italia in controluce. Oggi vogliamo parlare di volontariato, fino a che punto un'associazione di volontariato che opera in zone di crisi e difende i più deboli può sporcarsi le mani, entrare in rapporto coi cattivi nelle varie zone del mondo pur di difendere donne, malati, bambini, tutti quelli che hanno bisogno. Una domanda sempre più attuale nelle aree di crisi. Valentina Furlanetto. Ipotesi: sei un operatore umanitario in una zona di guerra in Africa. Nel tuo furgone ci sono aiuti alla popolazione. Ti fermano degli uomini armati. Saccheggiano il furgone. Dentro ci sono medicinali, coperte, cibo, che verranno rivenduti e con i soldi compreranno armi che alimenteranno la guerra in corso. Che fai? A. Continui a fare il tuo lavoro, anche se sai che parte degli aiuti alimenterà i carnefici. B. Avvisi la tua ONG, fai loro presente che, date le circostanze, con gli aiuti si alimenta la guerra. Con questo tipo di interrogativi si apre il libro controverso di Linda Polman, una giornalista olandese che con l'industria della solidarietà ha avuto il merito di aver sollevato un problema. Secondo Polman, spesso gli aiuti paradossalmente finiscono per tradursi in un aggravamento o un allungamento dei conflitti. Spesso denaro e beni, scrive, in un modo o nell'altro finiscono nelle mani dei combattenti. Gianni Milesi, presidente del CESVI. Una delle critiche che la Polman fa è, per esempio, rispetto al fatto che noi siamo riconosciuti dai governi in cui operiamo. Io ricordo che quando siamo stati la prima organizzazione occidentale a sbarcare in Corea del Nord, qualcuno ci disse: ma voi così indirettamente sostenete un regime il più demenziale che esista oggi sulla faccia della terra. E noi ci siamo invece occupati di centrare precisamente il nostro target, che erano i bambini degli orfanotrofi, i bambini delle scuole. E siamo riusciti a controllare la grandissima parte del con ovviamente evitando di portare grandi container di riso, che era difficile da controllare, ma portando aiuti molto mirati. Abbiamo controllato il 100%? No, probabilmente no. La sensazione è che il 90% dei nostri aiuti siano arrivati a destinazione. There comes a time when we heed a certain call, when the world... Avrete riconosciuto questi sonori, appartengono al Live Aid, all'evento rock che si tenne il 13 luglio 1984 contemporaneamente in diversi paesi, organizzato dal cantante Bob Geldof allo scopo di ricavare fondi per alleviare la carestia che allora aveva colpito proprio l'Etiopia. Uno dei grandi eventi rock della storia, ma anche uno dei più grandi eventi di beneficenza e raccolta fondi di tutti i tempi. Vennero raccolte 150 milioni di sterline, circa 245 milioni di dollari. Ma quanti di questi soldi sono andati effettivamente alla popolazione etiope? You've got to get on the phone and take the money out of your pocket. Don't go to the pub tonight, please. Stay in and give us the money. There are people dying. Now, so give me the money. Di recente un reportage della BBC ha documentato che il 90% degli aiuti andarono in realtà ad alimentare il regime di Mengistu Haile Mariam e a comprare armi invece che medicine e cibo. Ad avvalorare la tesi ci sono le rivelazioni di due ex ufficiali del Tigrayan People's Liberation Front, che hanno ammesso di aver rubato gran parte dei fondi per rifornirsi di armi e munizioni. We were using aid money to buy arms, you know. We are, there is not, let me be specifically clear, not a single shred of evidence that Band-Aid or Live Aid money was diverted in any sense. It could not have been. Nemmeno un penny è stato speso per armi, ha detto Bob Geldof. Se alla fine di questo servizio avete deciso di non essere più generosi, beh, non avete capito lo spirito di questo reportage e nemmeno avete apprezzato la generosità dei nostri interlocutori, che hanno voluto proprio essere trasparenti e parlare anche di ciò che forse non va nel meccanismo degli aiuti internazionali. Italia in controluce. Una città raccontata dagli artisti, Napoli di ieri e di oggi, la città che incanta ma anche quella che lascia disperati tante volte per i suoi problemi